L'amica di Bloch e della duchessa di Guermantes non era soltanto elegante e affascinante, era anche intelligente, e conversare con lei era piacevole, ma mi era reso difficile dal fatto che non solo il nome della mia interlocutrice, ma anche quello d'una quantità di persone di cui mi parlò e che formavano al momento il nucleo del bel mondo, mi era del tutto nuovo. È vero che, d'altra parte, poiché lei voleva che le raccontassi qualche episodio, molti dei nomi che le citai non le dissero assolutamente nulla. Erano caduti tutti nell'oblio, almeno quelli che avevano brillato solo del fulgore individuale d'una persona e non erano il nome generico e permanente di qualche celebre famiglia aristocratica, di cui raramente la giovane donna sapeva il titolo esatto, supponendo nascite inesatte in base a un nome frainteso a un pranzo la sera prima. E per la maggior parte non li aveva mai sentiti pronunciare, avendo cominciato ad andare in società, non solo perché era ancora giovane, ma perché viveva in Francia da poco tempo e non subito era stata ricevuta, solo qualche anno dopo che io me ne ero allontanato. Non so come mi venne sulle labbra il nome di Madame Leroy e, per caso, grazie a qualche vecchio amico di Madame de Guermantes che le faceva la corte, la mia interlocutrice ne aveva sentito parlare, ma in modo inesatto, come vidi dal tono sprezzante con cui quella giovane snob mi rispose: «Ma certo, so chi è Madame Leroy, una vecchia amica di Bergotte». Un tono che significava: «Una persona che non avrei voluta in casa mia». Capii al volo che il vecchio amico di Madame de Guermantes, da perfetto uomo di mondo imbevuto dello spirito Guermantes, di cui faceva parte il mostrare che non si dava importanza alle frequentazioni mondane, aveva ritenuto troppo sciocco e troppo poco Guermantes precisare Madame Leroy, che frequentava tutte le altezze, tutte le duchesse, e aveva preferito dire: «Era piuttosto simpatica. La Bergotte un giorno ha risposto così e così». Solo che, per chi non sa niente, queste informazioni trasmesse conversando equivalgono a quelle che la stampa dà alla gente del popolo, la quale, a seconda del giornale che legge, crede alternativamente che Lubé e Reinach siano dei ladri o dei cittadini esemplari. Per la mia interlocutrice, Madame Leroy era stata una specie di Madame Verdurin prima maniera, meno in vista e con un piccolo clan limitato al solo Bergotte. Questa giovane donna, d'altronde, è una delle ultime ad aver sentito, per puro caso, il nome di Madame Leroy. Oggi nessuno sa più chi sia, il che, del resto, è perfettamente giusto. Il suo nome non figura nemmeno nell'indice delle memorie postume di Madame de Viparisi, nella cui mente Madame Leroy occupò tanto posto. Del resto, se la marchesa non ha mai parlato di Madame Leroy, non è stato tanto perché questa l'aveva trattata in vita poco amabilmente, quanto perché nessuno poteva interessarsi a lei dopo la sua morte, così che il silenzio è dettato meno dal rancore mondano della donna che dal tatto letterario della scrittrice. La mia conversazione con l'elegante amica di Bloch fu incantevole, perché la giovane donna era intelligente, ma la differenza fra i nostri due vocabolari la rendeva disagevole e al tempo stesso istruttiva. Abbiamo un bel sapere che gli anni passano, che la giovinezza lascia il posto alla vecchiaia, che anche le fortune e i troni più solidi crollano, che la celebrità è passeggera. Il nostro modo di prendere conoscenza e, per così dire, di prendere lo stampo di questo universo mobile trascinato dal tempo finisce invece con l'immobilizzarlo. E così vediamo sempre giovani le persone che abbiamo conosciute giovani, a quelle che abbiamo conosciute vecchie attribuiamo retrospettivamente nel passato le virtù della vecchiaia. Ci fidiamo senza riserve del credito di un miliardario e dell'appoggio di un sovrano, sapendo col ragionamento, ma non credendo effettivamente, che potranno essere domani dei fuggiaschi senza potere. In un campo più ristretto e di pura mondanità, come in un problema più semplice che inizia a difficoltà più complesse, ma dello stesso ordine, La mancanza di comprensione derivante ai miei discorsi con la giovane donna dal fatto che eravamo vissuti in un certo ambiente a 25 anni di distanza mi dava l'impressione della storia e avrebbe potuto rafforzarmene il senso. Va detto, d'altronde, che questa ignoranza delle situazioni reali, che ogni 10 anni fa spuntare gli eletti nella loro apparenza attuale, è come se il passato non esistesse, che impedisce a un'americana appena sbarcata di rendersi conto di come il signor di Charlieu avesse a Parigi la posizione più eminente quando Bloch non ne aveva alcuna, e di come Swann, che prodigava tante premure al signor Bontemps, avesse goduto delle più grandi amicizie, questa ignoranza non è solo dei nuovi venuti, ma anche di chi ha sempre frequentato ambienti vicini, ed è in questi ultimi, come negli altri, anche un effetto che si esercita però stavolta sull'individuo e non sullo strato sociale, del tempo. Certo, per quanto possiamo cambiare ambiente, genere di vita, la nostra memoria, trattenendo il filo della nostra personalità identica, ricollega ad essa, nei successivi periodi, il ricordo delle società in cui siamo vissuti. Si trattasse anche di 40 anni prima. In casa del principe di Guermont, Bloch sapeva perfettamente in quale umile ambiente ebraico fosse vissuto a 18 anni, e Swann, quando non era più innamorato di sua moglie, ma di una donna che serviva il tè da Colombon, proprio là dove Madame Swann aveva creduto per qualche tempo che fosse chic andare come al tè della Rue Royale, Swann sapeva benissimo quale fosse il proprio valore mondano. Si ricordava di Twickenham. Non aveva il minimo dubbio sulle ragioni per cui preferiva andare da Colombon piuttosto che dalla duchessa di Broglie. E sapeva perfettamente che quando anche lo fosse stato, lui, 1000 volte di meno, andare da Colombon o al Ritz non lo avrebbe reso d'un solo atomo più chic, dato che, pagando, ci può andare chiunque. Certo, gli amici di Bloch o di Swann si ricordavano anche loro della piccola società ebraica o degli inviti di Twickenham, e anche gli amici, come altrettanti io un po' meno distinti di Swann e di Bloch, non separavano nella loro memoria dal Bloch elegante di oggi il Bloch sordido d'un tempo, dallo Swann di Colomban degli ultimi giorni lo Swann di Buckingham Palace. Ma questi amici erano in qualche modo, nella vita, i vicini di Swann. La loro si era sviluppata su una linea abbastanza vicina perché la loro memoria potesse essere sufficientemente piena di lui, ma in altri, più lontani da Swann, a una distanza maggiore non tanto socialmente, ma come intimità, che aveva reso più vaga la conoscenza e molto rari gli incontri, i ricordi meno numerosi avevano fatto sì che le nozioni fossero più oscillanti. Ebbene, in estranei di questo genere, dopo 30 anni, non c'è più un solo ricordo preciso che possa prolungarsi nel passato e mutare il valore dell'essere che si ha sotto gli occhi. Negli ultimi anni della vita di Swann avevo sentito gente, che pure era di mondo, dire a chi parlava di lui, e come se fosse stato quello il suo titolo di notorietà, «State parlando dello Swann di Colombon?» Adesso sentivo gente, che pure avrebbe dovuto sapere, dire, parlando di Bloch, il Bloch Guermont, l'intimo dei Guermont. Tali errori, che scindono una vita e, isolando il presente, fanno dell'uomo di cui si sta parlando un altro uomo, un uomo diverso, una creazione del giorno prima, un uomo che è soltanto la condensazione delle sue abitudini attuali, mentre egli porta in sé la continuità della propria vita che lo collega al passato. Tali errori dipendono anch'essi dal tempo, ma non sono un fenomeno sociale, bensì un fenomeno della memoria. Ebbi, in quel preciso istante, un esempio d'una varietà, è vero, abbastanza diversa, ma proprio per questo più impressionante, di questi oblii che modificano ai nostri occhi l'aspetto degli esseri. Un giovane nipote di Madame de Guermont, il marchese di Villemandois, era stato con me, in altri tempi, di un'insolenza ostinata che m'aveva indotto, per rappresaglia, ad adottare nei suoi confronti un atteggiamento così insultante da renderci tacitamente l'un l'altro come due nemici. Mentre, a quel ricevimento in casa della principessa di Guermont, stavo riflettendo sul tempo, chiese d'essermi presentato, dicendo che credeva che io avessi conosciuto certi suoi parenti, che aveva letto qualche mio articolo e che desiderava fare o rifare conoscenza. Bisogna dire che con l'età, come molti, da impertinente s'era fatto serio, che non aveva più la stessa arroganza e che, d'altra parte, nell'ambiente che frequentava, a causa di quei pur modesti articoli, si parlava di me. Ma tali ragioni della sua cordialità e della sua iniziativa non furono che accessorie. La principale, o quantomeno quella che consentì alle altre di farsi avanti, è che, avendo una memoria peggiore della mia, o avendo fatto meno attenzione alle mie repliche di quanta ne avevo fatta io un tempo ai suoi attacchi, dato che io ero allora per lui un personaggio più piccolo che non lui per me, si era completamente dimenticato della nostra inimicizia. Il mio nome gli ricordava, tutt'al più, che m'aveva visto, me o qualcuno dei miei, in casa d'una sua zia, e non sapendo bene se si faceva presentare o ripresentare, si affrettò a parlarmi di sua zia, in casa della quale, ne era certo, doveva avermi incontrato, ricordando che vi si parlava spesso di me, ma non i nostri litigi. Un nome, molto spesso, è tutto quanto ci rimane d'un essere, e non solo quando è morto, ma mentre è ancora vivo. E le nozioni che abbiamo di lui sono così vaghe o bizzarre, e corrispondono così poco a quelle che ne avevamo, che ci siamo del tutto dimenticati d'essere stati sul punto di batterci in duello con lui. Ma ricordiamo che da bambino portava delle strane ghette gialle ai Champs-Élysées, dove lui, per contro, nonostante le nostre assicurazioni, non ha il minimo ricordo d'aver giocato con noi. Bloch era entrato saltando come una iena. Io pensavo, eccolo in salotti dove 20 anni fa non sarebbe mai riuscito a penetrare. Ma aveva 20 anni di più. Era più vicino alla morte. A che cosa gli serviva? Da vicino, nella trasparenza d'un volto in cui, a maggior distanza e con poca luce, non vedevo, sia che vi sopravvivesse, sia che fossi io ad evocarvela, che la gaia giovinezza, stava il volto, quasi spaventoso, pieno d'ansia, di un vecchio Shylock, che aspetta fra le quinte, tutto truccato, il momento d'entrare in scena, e già recita sottovoce il primo verso. Fra 10 anni, imposto in quei salotti dalla loro stessa pochezza, sarebbe entrato saltellando sulle stampelle, trasformato in maestro che considera un obbligo ingrato dover andare dai La Tremoille. A che cosa gli sarebbe servito?